La Rosa Purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci insieme, amici, questa è l'ora di cinema di Radio 24, La Rosa Purpurea. Un saluto da Franco D'Assisi, settimana di tante uscite, quindi una settimana di quantità per quanto riguarda il cinema, non proprio altrettanto possiamo dire della qualità, e lo vedremo durante questa puntata. Qualcosa di interessante c'è, grazie al cielo, poi ci sono anche sempre tutti i film già in sala, ma insomma, con le premesse che c'erano non è che sia proprio una settimana da strapparsi i capelli, settimana dominata, se vogliamo, a livello di classifiche potenziali, ovviamente, da Superman. E allora noi andiamo a fare subito il callo con quelli che sono i temi della trasmissione nei nostri titoli di testa. Torna sul grande schermo il supereroe per definizione. È Superman, l'uomo d'acciaio della pellicola firmata Zack Snyder. Prima ragazzo con poteri illimitati, poi supereroe in tutina e mantello che lotta per la salvezza della Terra. Ma il film non convince. Il cha-cha-cha noir di Marco Risi. Al cinema, il nuovo thriller poliziesco firmato dal regista del Muro di Gomma e di Fort Apache. Protagonista Luca Argentero nei panni di un investigatore che scava nella morte di un adolescente turbolento. Alla Rosa Purpurea, intervista a Marco Risi. Federico Zampaglione torna dietro la macchina da presa con Tulpa, il suo terzo film da regista. Claudia Gerini, protagonista di una storia torbida, donna in carriera di giorno, femme fatale a tutto sesso di notte. Nel cast anche Michele Placido, Michela Cescon e Ivan Franek. Che strano chiamarsi Federico. Lo scriveva García Lorca, lo dice Ettore Scola, che a Federico Fellini dedica quello che definisce un non documentario a 20 anni dalla morte del maestro riminese. Ascoltiamo l'intervista a Scola, realizzata da Boris Sollazzo. Sei diventato più forte di quanto potessi immaginare. L'unico modo per sapere quanto è continuare a sperimentare i tuoi limiti. La puoi salvare, Carl. Puoi salvarli tutti. E c'è tutto Superman dentro questa piccola clip che vi abbiamo fatto ascoltare dall'Uomo d'Acciaio. C'è il senso della missione, il senso del compito che questo ragazzo supereroe si trova a dover affrontare. Torna sugli schermi cinematografici italiani e del mondo Superman con l'Uomo d'Acciaio, Man of Steel, diretto da Zack Snyder, basato ancora una volta sul personaggio dalla tutina azzurra, qui piuttosto tecnologica dobbiamo dire, e dal mantello rosso, un ennesimo reboot, se vogliamo, della serie, il terzo, che prova a partire dall'inizio, anzi da prima dell'inizio. Infatti qui, ed è forse la parte più interessante del film, vediamo Superman, ne conosciamo le origini sin dall'inizio sul suo pianeta, poi lo ritroviamo sulla Terra, lavorare sulle piattaforme petrolifere, vivere quasi in incognito, dotato però dei suoi poteri e della sua forza straordinaria che deciderà, ben per il nostro pianeta, di mettere a disposizione appunto degli umani. Un film diviso, potremmo dire, in due parti. Una prima parte, come dicevo, un po' più riuscita, più narrativa, più legata alla storia, alla personalità di questo ragazzo che sin da bambino comincia a mostrare i suoi prodigi e che, sotto consiglio del padre, un ottimo ruolo di Kevin Costner, del padre terrestre, chiamiamolo così, cerca un po' di stare nascosto, di non rivelare la sua forza e i suoi poteri fino a quando non sarà il momento giusto, fino a quando la Terra non sarà pronta o non dovrà per forza accettarne le conseguenze. E poi abbiamo anche una seconda parte, quella del Superman supereroe, quella in cui appunto arriva il mantello, arriva la tutina, arrivano le battaglie contro il cattivo di turno, il generale Zod, molto rutilanti, molto rumorose, molto continuate, reiterate al limite della noia, francamente, in 142 minuti, se non si dosano bene i tempi, non se ne esce bene. Insomma, un film che non mantiene tutte le premesse, a mio modo di vedere, anche sotto il profilo degli effetti speciali. Siamo nel 2013, ormai il cinema hollywoodiano ci ha abituato a vedere di tutto, ma insomma, grandi trovate non ce ne sono. e l'utilizzo degli effetti speciali è piuttosto elementare, senza coinvolgimento particolare da parte del pubblico. Ricordo, il film tra l'altro è in 3D ma si può vedere anche in 2D, ci saranno le due proiezioni in cinema selezionate, quindi insomma potete scegliere. A noi chiamiamo in causa il nostro Boris Sollazzo, che è già in collegamento. Ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ecco, dicevo, quindi un Man of Steel tutto sommato abbastanza deludente, che non lascia in bocca nulla alla fine. Sembra un film che non ha preso niente dalla lezione degli ultimi, diciamo, 10 anni. Mi riferisco a saghe tipo L'Uomo Ragno, tipo Batman, che hanno saputo reinterpretare un po' l'eroe. Qui ci si prova nella prima parte, come dicevo, quella un po' più incognita, ma quando l'eroe esplode, il film scoppia. Assolutamente d'accordo. Volendo fare una battuta, è super deludente, nel senso che ha la delusione di non trovarsi di fronte a un film di supereroi di un certo livello, come quelli che abbiamo visto comunque negli ultimi 10 anni. Si aggiunge la delusione di una prima parte che sicuramente prometteva e premetteva più di quello che poi arriva nella seconda. La seconda, come hai detto tu, è priva di effetti speciali considerevoli, e questa posso forse considerarla anche una scelta filologica, però di chi filologico non è stato in tutto il resto, nel senso che Superman è un eroe antico, è un eroe che ha le sue radici addirittura prima della Seconda Guerra Mondiale, e per questo si voleva restituire una battaglia, una lotta nella sua purezza. Però insomma mi sembra debolissima come giustificazione. Sembra di fatto di vedere per un'ora una lotta di wrestling che ha come palcoscenico prima un paesino e poi una città. Si pensava che fosse un dream team, quello di Nolan alla produzione e alla supervisione, quello di Goyer alla sceneggiatura e quello di Snyder come shooter, di fatto come regista che non doveva pensare a nient'altro che a girare. Si è rivelato invece come molte delle squadre all-star anche nello sport, tanti campioni che forse hanno giocato tutti nel ruolo sbagliato, perché Nolan ci ha messo una struttura alla Batman Begins, e di quel film molto bello, francamente il difetto era proprio quella struttura divisa totalmente in due. Goyer ci ha messo una sceneggiatura che sia nei dialoghi che nella struttura è davvero carente, e Snyder ci ha messo il peggio di sé, cioè quella voglia di reiterare e continuare scene d'azione che a lui sembrano belle ma a pochi altri, e stupisce perché sembrava estremamente maturato dopo Watchmen. Per quanto riguarda il film, l'unica bella notizia è che Costner torna, e torna da par suo, fa questo padre che comunque anche nell'uscita di scena sconta una sceneggiatura al limite del grottesco, e quindi Superman veramente risulta super deludente, a partire poi da quello Henry Cavill, che francamente non ha il carisma adatto, ma quello è stato sempre un problema dell'uomo di Krypton per sostenere sulle spalle il mondo, ma anche quel costumino che insomma è difficile da portare con quei colori e così attillato. Forse si può fare un mezzo sorriso per Russell Crowe, che in qualche modo, nonostante arrivi come Deus Ex Machina anche all'improvviso e in alcuni momenti ha anche degli effetti comici, di fatto però non, rispetto al passato non sfigura. Però davvero poca roba, lo si aspettava moltissimo questo Superman e non realizza nessuna delle sue attese. Riesce a immaginare come reagirebbe la gente su questo pianeta se sapesse che c'è qualcuno così in giro? Un giorno dovrai fare una scelta. Dovrai decidere se mostrarti con orgoglio alla razza umana oppure no. La Rosa Purpurea. Eccoci qua, seconda parte della Rosa Purpurea. Abbiamo detto, pronti a parlare di un film italiano in questa settimana di uscite. Si intitola Cia Cia Cia, ma insomma è un titolo vagamente fuorviante, perché uno si immagina della brillantezza sorridente. Invece è un film di tinte noir, di indagini, di polizia, di droga, di traffici, ma anche di tanta umanità negata, violata e uccisa. La storia diciamo in poche parole, quella di un ragazzo un po' sbandato, di una madre preoccupata per le sue sorti, che si affida a un investigatore ex poliziotto che sorveglia questo ragazzo fino a quando non succede il fattaccio. E il fattaccio è quello di un incidente, sembra un incidente almeno, in cui il ragazzo rimane ucciso, e da lì si sviluppa una trama che è tutta gialla, che è tutta noir, che scava nei meandri delle vite di queste persone, e lo fa con gli stilemi del classico del noir. Insomma, c'è molto, anche molto polar in un certo senso in questo film. Noi salutiamo già Marco Risi, il regista di Cia Cia Cia, che è in collegamento con noi. Ciao Marco. Ciao, buongiorno, buonasera. Grazie per essere qui con noi alla Rosa Purpurea. Io farei ascoltare subito questa prima clip del film, che introduce un po' la relazione fra il personaggio dell'investigatore ex poliziotto interpretato molto bene da Luca Argentero e della madre in angoscia, che è appunto Eva Erzigova. Poi ne parliamo, sentiamo. Allora, Tommy. Ieri non è andato a scuola. Ha comprato un altro cellulare da 600 euro e ha passato più di 2 ore in videopoker. Ha troppi soldi in tasca per un ragazzino della sua età. Dici? Quell'età o li segue e finiscono nei guai, Michelle. Poi fai come ti pare. Perché mi tratti così? Non ti tratto in nessun modo. Secondo te perché ti ho chiamato? Perché ti ha chiesto di seguirlo? Non so più che fare. Marco, un'investigazione, come abbiamo detto prima, dentro una storia nera, ma anche dentro le vite delle persone. Com'è nata questa storia, questa tua voglia di applicarti al genere, chiamiamolo pure poliziesco, insomma? Sì, no, si parla sempre, no, del ritorno, che sarebbe bello fare dei film di genere, e non è detto che con i film di genere non si possano raccontare anche un sacco di cose del paese. Non è detto che la finzione non assomigli di più alla realtà del paese. Succedono talmente tante di quelle cose in questo paese che viene voglia di raccontarle. Quando sento quelle cose in cui si dice è difficile raccontare il paese, lo fa già la televisione, io non sono d'accordo, perché dovrebbe essere il nostro compito quello di anticipare, di prevedere, ma anche di immaginare, anche di fantasticare sulla realtà che andrebbe raccontata in un certo modo, e quindi inventando una storia che ha a che fare però con noi si possono dire anche tante cose nelle quali poi gli spettatori si possono anche riconoscere. Senti, scelta del cast, anche qui hai fatto un lavoro, a mio modo di vedere, molto interessante, perché da una parte Eva Erzigova, dall'altra Luca Argentero. Ora Luca è ormai una realtà affermata, giustamente a mio modo di vedere, del cinema italiano. La scelta dell'Erzigova nel ruolo della madre magari poteva essere un po' più rischiosa, secondo me invece è promossa a pieni voti. Insomma, com'è nata questa coppia? È una coppia strana. Intanto nei film di questo genere, insomma, è come se fosse una regola il fatto che lei, la bella, sia bionda. Se facciamo riferimento ai film di Hitchcock, per esempio, Hitchcock diceva che sempre le donne nei suoi film dovevano essere bionde, raramente sono state di altri colori. Poi aveva in mente i suoi capelli, il suo sorriso. Io l'avevo incontrata 15 anni fa, l'avevo vista una volta per caso in Italia in un ristorante, e mi ricordo che dietro quello sguardo fatto di sorrisi e di glamour c'era anche un'anima interessante. Poi sono passati tanti anni e quando pensavo a questo personaggio immaginavo che dovesse essere così, ma soprattutto che dovesse essere anche straniera, ma che parlasse un po' italiano. Sai, quelle straniere che vengono in Italia, che fanno dei figli qui, che sposano qualcuno di molto potente, che tentano di fare le attrici o le modelle, le cose, e poi si sistemano appunto con qualcuno. Ecco, questa donna così, che pensava di aver risolto la sua vita mettendosi con qualcuno di molto ricco, invece viene travolta da una cosa terribile che le porta via il suo bene più prezioso, veramente il suo affetto più grande, il figlio. E poi c'è una sottotraccia nel film, appunto, che è questa storia d'amore che c'è stata 15 anni prima con Luca Argentero, che ti dà la dimensione proprio del dolore che queste due persone sanno di poter provare se si dovessero di nuovo trovare a contatto l'una con l'altra. Quindi si sfiorano ogni volta, ma non hanno il coraggio di andare fino in fondo, perché quello sanno tutti e due che li brucerebbe di nuovo. Marco, una cosa sotto il profilo proprio strettamente registico e stilistico. Hai lavorato in questo film, a mio modo, in maniera molto interessante sul sonoro e sui silenzi. È un film nel quale molto spesso hai l'impressione, sai quando ti metti in un angolo e la tua testa sta pensando delle cose e non ti accorgi, i rumori del mondo sono ovattati, sono qualcosa di molto distante. E questo senso di presenza è un po' punteggia un po' tutto il film. Ecco, come hai lavorato a questo aspetto? Ma questo era molto importante anche perché io sono sempre stato molto attento al sonoro nei film, anche in Fortapace c'era moltissimo di questi suoni che venivano dalla città che formavano quasi la colonna sonora del film. Qui sono invece anche molto importanti i silenzi perché il protagonista, nonostante a un certo punto sia quasi assordato da un colpo di pistola che gli sparano proprio volutamente vicino all'orecchio, dopo quando riesce a riacquistare anche completamente l'udito, siccome è un uomo molto attento ai particolari, cerca di ricostruire le cose e stando attento a una registrazione del ragazzino che è morto in quell'incidente, si accorge che c'è qualcosa che non va, c'è un rumore di sottofondo che gli ricorda qualche cosa, che gli fa venire in mente che la notte prima di essere ucciso lui la possa aver passata in un altro posto. E da lì, quindi tutti i rumori, tutti i suoni, ma naturalmente anche tutte le parole, tutte le pause, sono calcolate, insomma, hanno un senso. Marco, è anche, ti chiedo, il quadro di una neo-gioventù bruciata, fammi dire, usando un termine cinematografico, cioè la socialità di questo film, quel sociale che dici a volte si può raccontare anche con un film di genere, sta anche nella figura di Tommy, nella figura di questo ragazzino bruciato e chiunque abbia figli adolescenti, come dire, sa quali sono le preoccupazioni di oggi, no? Di un genitore, di un figlio di quell'età. Mi viene in mente che Pasolini avrebbe raccontato tutto un altro ceto sociale per raccontare questa storia, no? Invece qua tu racconti un ceto sociale che dovrebbe essere agiato, borghese, benestante. Certamente, e l'ha fatto Pasolini, naturalmente l'ha fatto appunto quando si parlava di preveggenza, l'aveva fatto 40 anni prima, ma è vero. Io quando ho cominciato a pensare a questo film e mi sono informato, naturalmente anche intervistato e visto e frequentato degli investigatori privati, e molte sono le richieste da parte dei genitori di seguire i propri figli, perché sanno, questo naturalmente è dovuto anche al fatto che i genitori oggi sono più incapaci di prima di stare dietro e di conservare, di avere, di mantenere un rapporto con i propri figli, perché stanno perdendo un po' i contatti loro per primi con quelle che sono le realtà che ci circondano. È come se i genitori non avessero smesso di essere figli e fanno molta fatica a diventare genitori, e i figli vorrebbero dei genitori che non sono capaci di essere tali. Quindi è molto difficile il rapporto oggi padri-figli. Marco, grazie per essere stato qui con noi. Salutaci Luca grazie anche per Cia Cia Cia nei cinema italiani da questa settimana. Alla prossima. Grazie a voi. E allora, dopo Cia Cia Cia, parliamo invece, anzi danziamo, con il nostro DVD game. Prima traccia del film misterioso. Devo andare. D'accordo, ragazzi. Mi raccomando, seguite il piano. Seguire il piano? Era lei il piano. Dovevamo seguire lei. Ve la caverete. La Rosa Purpura @radio24.it, di che film si tratta, vostro indirizzo, provate a vincere una copia per il sabato e una per la domenica del Blu-ray di questo film più tardi, altre due possibilità. E rimaniamo al cinema italiano, parliamo di un'altra uscita nostrana nelle sale di questo fine settimana, ne avevamo parlato, accennato la settimana scorsa, momento in cui noir, thriller, horror italiano sembrano aver ritrovato una strada, sarà anche la stagione che comincia a diventare finalmente estiva. Ebbene, arriva nelle sale la nuova fatica cinematografica di Federico Zampaglione, si intitola Tulpa, è interpretato da Claudia Gerini, Michela Cescon, Michele Placido, fra gli altri Ivan Franek, cast abbastanza importante. Sentiamo questa clip e poi ne parliamo con Boris Sollazzo. È stato davvero speciale stasera. È contro le regole. Buongiorno. Buongiorno. Il consiglio ha preso la decisione. Qualcuno dovrà andare via. Ma quella cenetta? Io la sera lavoro sempre fino a tardi. Ho scoperto che frequento un posto molto sospetto. Ho scattato delle foto. Due donne e un uomo sono stati ammazzati. E io sono stata con tutti loro. Erano membri del Tulpa. E questa è la voce di Claudia Gerini, donna in carriera di giorno, ma con una vita notturna piuttosto vivace, diciamo così, tailleur, guépière e la Roma dell'Eur, in un luogo, in un locale per scambisti, appunto il Tulpa. La sua vita va fuori da questo già, diciamo, particolare tran tran nel momento in cui alcuni clienti del locale vengono trovati uccisi e sono tutti in qualche modo collegati a questa donna, e qui chiaramente parte la componente gialla, diciamo, un po' del film, che ha le tinte noir, le tinte notturne, le tinte dei neon che si illuminano, che è un po' un tentativo di omaggio a un cinema italiano giallo anni 70, un po' proprio alla Dario Argento dei tempi migliori, Dario Argento ovviamente, ma che mi sembra Boris sposi quello che dicevo prima, ultima fatica cinematografica, ecco, un po' una fatica anche per lo spettatore. Un po' sì, c'è Argento, secondo me c'è soprattutto Fulci e Bava, Sacchetti, insomma c'è quel cinema che ha affascinato tanto Quentin Tarantino e che sicuramente affascina anche Zampaglione. Tulpa è uno strano oggetto cinematografico, perché per me, secondo me viene da un ragazzo a 45 anni con un talento molto grande. Shadow, a mio parere, che era stato il suo secondo film, un horror, era nel genere una delle cose migliori viste negli ultimi anni, insieme ai film di Alexandre Aja. Quindi, a mio parere, siamo di fronte a qualcuno che ha è un campione anche della regia, e lo dimostra anche qua la scena iniziale, la scena sul letto, i primi 3-4 minuti, secondo me è una scena capolavoro che basterebbe per pagare il biglietto. Il punto è che però Tulpa si innamora troppo di un cinema probabilmente che è già morto e che non fa più per noi, da una parte, e che comunque da Bava, Fulci e compagnia veniva fatto meglio, con più ironia, con più forza, anche con più coraggio in alcune scene, e senza tutta una serie di schemi che noi abbiamo ormai in questo cinema. E quindi Tulpa, alla fine, come dici tu, diventa una fatica, cioè diventa un'accozzaglia di immagini e scene che, prese singolarmente, possono far sorridere, possono piacere e possono avere una loro potenza, ma messe insieme costruiscono una trama, una storia e un film che non riesce a stare bene in piedi. Ecco, fammi aggiungere, a mio modo di vedere, Zampaglione dimostra di avere un grande talento visivo, ma sulla direzione degli attori di avere ancora parecchie cose da mettere a posto, e comunque non è un lavoro facile. E d'altra parte, a mio modo di vedere, il film è diviso in due, cioè funzionano bene le scene notturne di genere, funzionano meno bene tutta la parte diurna di lei manager del consiglio d'amministrazione, eccetera, insomma, ecco, quella lascia un pochino a desiderare. Comunque, insomma, perfettamente d'accordo. Per gli amanti di quella in cinema italiano può valer la pena comunque andarlo a vedere e farsi un pochino l'idea, perché qualche sprazzo visivo importante, come diceva Boris, sicuramente c'è. La Rosa Purpurea. Eccoci ancora qua, terza parte della Rosa Purpurea. Vi dobbiamo ancora un film fra quelli segnalati per questo fine settimana, perché è un film di un autore a tutto tondo, Park Chan-wook, autore coreano che, come dire, ci ha regalato sicuramente grandi film di vendetta, grandi film a tinte forti. Per la prima volta fa un film recitato in lingua inglese, basato su una sceneggiatura di un attore, di Wentworth Miller, con Mia Wasikowska, con Nicole Kidman e Matthew Good nel cast. Stiamo parlando di Stalker, ascoltiamo il trailer. Che cosa vuoi da me? Diventare amici. Non abbiamo bisogno di essere amici, siamo parenti. Boris, relazioni parentali, una ragazza orfana del padre si ritrova a vivere con una madre non del tutto stabile mentalmente, con uno zio piuttosto enigmatico appena arrivato in casa, insomma, ancora una volta relazioni di famiglia e soprattutto soluzioni piuttosto estreme. Sì, potremmo chiamarlo Baby Vendetta, volendo fare una battutaccia. Il punto è che forse dei tre film di cui abbiamo parlato, questo è quello che mi fa più arrabbiare, perché Park Chan-wook gioca proprio di furbizia, prende qualcosa da tutti i film che ha fatto, lo mette in un frullatore, prende anche una buona trama, perché la trama non è male, appunto c'è la morte del padre di Mia Wasikowska, il marito di Nicole Kidman, arriva questo zio, questo fratello che loro non hanno mai visto, Nicole Kidman l'ha visto una volta, e la figlia non l'ha proprio mai visto, nonostante poi si scoprirà lui avesse cercato di mantenere i contatti con lei, e si crea un menage che chiaramente risulta inquietante fin dall'inizio, proprio perché inquietanti sono tutti e tre i lati del triangolo. Film che risulta, a mio parere, molto prevedibile sia per chi ama Park Chan-wook, ma anche per chi non lo ama. Non riesce a stupirti né con scene visive particolari né con svolte di sceneggiatura. Mia Wasikowska dimostra di non essere una grandissima attrice quando non viene condotta fermamente da un ottimo regista, come era successo con Gus Van Sant, per esempio, e Nicole Kidman sembra essere innamorata di un ruolo che vorrebbe fare da anni e che cerca di fare da anni, che è quello che dovrebbe portarla a un salto di qualità e che però di fatto non riesce a fare, anche se devo dire la sua madre snaturata è quella che regala gli spunti più interessanti. Uno di quelli è il dialogo, il monologo che abbiamo sentito nel trailer. Nel complesso è davvero un film che nonostante la relativamente breve durata è straordinariamente noioso, già visto, e appunto con un Park Chan-wook che sembra ormai già fare esegesi di se stesso, e quindi sembra già non trovare più spunti per rinnovarsi, ma solo per ricordarci chi è. Quindi è veramente strettamente per appassionati, ma credo neanche per loro. Ebbene, grazie allora a Boris Sollazzo per averci raccontato anche questo Stalker. Boris, lo sentiremo fra poco però in intervista con Ettore Scola, che parla di Federico Fellini. Grazie Boris, alla prossima. Grazie, alla prossima. E allora a questo punto è il momento di giocare insieme per la seconda volta con una nuova traccia misteriosa del film da indovinare di oggi. Hai detto che sei solo un imbroglione. Precisamente. Nient'altro che un truffatore. Sì. Un tremendo impostore. Il migliore che esista. La Rosa Purpura @radio24.it, diteci di che film si tratta, provate a indovinare il titolo, inserite il vostro indirizzo, provate a vincere una copia in Blu-ray di questo film, del quale più tardi, fra poco, vi faremo ascoltare un'altra traccia. Dai film che sono già in sala a quelli che verranno, parliamo sempre di cinema italiano, di grandissimo cinema italiano, almeno di grandissimi nomi in questo caso, con Ettore Scola che ha incontrato la stampa nel mitico Teatro 5 di Cinecittà, quello di Federico Fellini per intenderci, proprio per un progetto, un film che ha appena finito di girare, un non documentario come lo chiama, lo sentirete, Ettore Scola, su Federico Fellini, ormai in occasione dei 20 anni della morte del grande maestro. Il film si intitolerà Che strano chiamarsi Federico. Le riprese sono finite, probabile una destinazione veneziana per la prima di questo film, che racconta appunto non solo la figura, gli anfratti, gli angoli, come dirà a Scola, di Federico Fellini, ma anche un rapporto, una relazione umana fra i due grandi registi. E allora a Cinecittà, allo Studio 5, per noi c'era Boris Sollazzo. Che strano chiamarsi Federico non è un film e non è un documentario, hai detto. Che cos'è? È un omaggio anche al neorealismo italiano, a cui Federico aveva contribuito con Rossellini, sceneggiando Paisage, sceneggiando Roma città aperta insieme con Sergio Amidei. Ma dal neorealismo è nato anche il neorealismo surreale, che era quello di Totò, che era un neorealismo surreale, da Totò fino a Pasolini, fino a Federico. Lei dice Fellini è un Pinocchio che non è mai diventato un bambino per bene. Ma perché aveva questo animo burattinesco, questo animo, quello che ci ha affascinato nel più grande romanzo italiano, ha affascinato generazioni e generazioni, ma non solo in Italia, dovunque. Che è dovuto anche non solo alla grandezza del burattino, ma ai suoi sentimenti, alla sua piccola cattiveria, al suo amore per il padre, però gli vende anche la giacca, cioè veramente è un ritratto dell'italiano, uno dei primi ritratti dell'italiano che è esecrabile, ma è anche adorabile. Non si parla mai di Flaiano. È un po' il destino degli sceneggiatori, si sente parlare poco di Amidei, ma Amidei è quello che ha fondato il neorealismo italiano. Lo sceneggiatore è un mestiere fondamentale per il cinema, che però ha un suo ambito nel quale per comodità viene un po' relegato. È un po' un destino a cui Flaiano invece non voleva sottostare, e quindi sentendosi lui ed essendo forse scrittore più importante, mal soffriva, mal sopportava questa gerarchia con Federico. Qual è la cosa che più le manca di Fellini? Abbiamo parlato di malumore, anche l'allegria, l'allegria di Federico. Federico era un uomo allegro, mai triste, di malumore, ma mai triste, anche perché un uomo triste è un triste uomo. Ettore Scola alla Rosa Purpurea con questa intervista per parlare di Che strano chiamarsi Federico, l'omaggio a Federico Fellini a 20 anni dalla morte. Ne parleremo poi ancora nel momento in cui il film troverà una distribuzione. La Rosa Purpurea. Ancora insieme alla Rosa Purpurea, siamo alla quarta parte del nostro programma dedicata come sempre ai film da vedere in casa, e oggi abbiamo proprio fatto una scelta tutta italiana in mezzo alle tante segnalazioni che ci hanno così sottolineato i nostri amici di Film TV. Abbiamo voluto scegliere due film italiani con respiro indipendente, anche se di produzione piuttosto diversa. Giulio San Giorgio è già con noi, ciao Giulio. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Un saluto a te e a tutti gli amici della redazione di Film TV. Dicevamo, scelte tutte italiane, è stato uno dei film più belli della Mostra del Cinema di Venezia dello scorso settembre del 2012, La nave dolce di Daniele Vicari, che punta i riflettori su un fatto che ormai ha una ventina d'anni e che è diventato storia, quello della cosiddetta invasione della nave degli albanesi che arrivò rimbalzata nei porti della Puglia, raccontando un mondo che a guardarlo con gli occhi di oggi sembra davvero velato di storia. Sì, domenica su Rai 3 alle 23:15 La nave dolce. È l'8 agosto del 1991, come dicevi, una nave albanese carica di 20.000 persone giunge nel porto di Bari. La nave si chiama Flora, è carica di zucchero, colma di speranza e stipata di persone. Per questi cittadini albanesi in cerca di futuro, Bari, come raccontò anche Amelio nel suo capolavoro, è l'America. Trovano però una città stupefatta, uno stadio di calcio vuoto, dove dopo lunghissime operazioni di sgombero del porto, gli albanesi vengono rinchiusi prima del rimpatrio. Daniele Vicari sostiene, dopo aver narrato la sospensione della democrazia in Diaz, che questo è un momento di cambiamento per l'Italia, proprio con la Flora che l'immigrazione si trasforma in un problema di ordine pubblico, in cui il governo italiano agisce su un'attitudine del popolo italiano, ovvero la capacità di accogliere, e la muta in peggio. Un documentario umanista che raccoglie i ricordi dei protagonisti e cerca nell'indistinto e vago materiale d'archivio Rai tracce di storia personali da non perdere. Assolutamente da non perdere, La nave dolce di Daniele Vicari, domenica 23 giugno su Rai 3 alle 23:15, mentre martedì 25, anche questo davvero non perdetelo, è stato un film fulminante quando ho avuto modo di vederlo alle giornate del Sé di Mantova di un paio d'anni fa. Non è ancora domani, La pivellina, un film che poi è andato anche a rappresentare l'Austria agli Oscar del 2011. Esatto, martedì sulla F alle 22:05 Non è ancora domani, La pivellina. Cercando il cane in un parco periferico di Roma, Patrizia trova una bambina di 2 anni tutta imbacuccata, Asia, lasciata sola dai genitori. La donna vive con una famiglia di artisti di strada e circensi, dove anche la piccola si inserisce a meraviglia. È un piccolo film di pedinamento diretto da due autori di Bolzano, Tizzacov e Rainer Frimmel, girato in 16 mm e sempre con la luce naturale in un campeggio a San Basilio. Un film che si infischia della distinzione tra fiction e documentario e lascia ampissimo spazio all'improvvisazione degli attori non professionisti, in cui non importa la pur bellissima storia, ma importano il paesaggio e le sue figure. Seguire la bambina significa seguire una galleria di personaggi che hanno deciso di vivere una vita marginale, ma hanno una loro ritualità, una loro quotidianità e una commovente e rarissima dignità. Un film delicato, delizioso, gioioso e veramente un inno all'umanità. E allora, La pivellina è martedì 25 giugno su La F, digitale terrestre, alle 22:05. Grazie a Giulio San Giorgio e buon lavoro agli amici di Film TV. Ciao Franco, alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Andiamo a giocare ancora insieme con la terza e ultima traccia del nostro game di oggi. Un mago dall'immensa rettitudine morale, semplicemente un vero, buon, affidabile mago, brava gente. Il mago, eccolo qui. Come sono andato? Eh beh, insomma, qui la parola mago, se non ci siete già arrivati, ma so che ci siete già arrivati, dovrebbe dire molto. La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film, vostro indirizzo privato per poter provare a ricevere una copia di questo film in Blu-ray per il sabato e una per la domenica. 7 giorni fa, maxi gioco con ben 4 premi, premi raddoppiati con questo film. Beh, noi abbiamo ritrovato una botte, diciamo, un anno fa e abbiamo venduto una bottiglia di quel whisky a 100.000 sterline. 100.000 una bottiglia? Io ci compravo 30.000 bottiglie della merda che bevo io. Ci facevo 30 anni di bevute. Tu sei scemo. E allora, si trattava del bellissimo film di Ken Loach, La parte degli angeli, di Angel Share, che mette insieme un po' il mondo dei collezionisti e degli appassionati di whisky con il consueto microcosmo locciano fatto di sbandati in cerca di redenzione. Lo hanno indovinato per primi, sabato e domenica hanno vinto le 4 copie del DVD Alessandra Sturabotti di Este, provincia di Padova, Maurizio Politi di Perugia, Chiara Pemoli di Gussago, provincia di Brescia, Elena Poltronieri di San Bonifacio, provincia di Verona. Saranno loro a ricevere una copia del DVD del quale parliamo con il nostro Claudio Pofi. Ciao Claudio. Ciao Franco, un saluto agli ascoltatori. Allora, da Bincomedia, l'edizione solo DVD, comunque significativa per la resa d'immagine, traccia Dolby Digital Multicanale per l'italiano, mentre solo 2 canali per l'originale inglese. Il consiglio è comunque quello di ascoltare anche i dialoghi originali che calano maggiormente nel mood del racconto. Per gli extra segnalo 22 minuti di making of, 13 minuti di scene eliminate e 20 minuti in compagnia del regista. All'interno della confezione un simpatico scritto esclusivo da parte dello sceneggiatore Paul Leverty. E allora un film davvero da non perdere, questo La parte degli angeli, in questa sua uscita on video. Parliamo di un paio di novità che arrivano invece in videoteche sugli scaffali dei multicenter. Il primo è Red Lights, una storia di spie e di paranormale del 2012. E poi ho cominciato a fissare un punto. Nome. Fissava qualcosa dietro di me. Come se potesse vedere qualcuno dietro di me. Sai, come fanno i medium quando dicono di vedere un angelo o un parente morto che ti è vicino. No, non ero sorpresa. Mi aspettavo dei trucchi teatrali, perciò ero preparata. Vedo un bambino vicino a te. Vedo un bambino biondo. Sai chi potrebbe essere, Margaret? È morto un bambino vicino a te. Margaret e Tom sono investigatori del paranormale, noti per la capacità di scoprire ciarlatani. Nonostante la vasta esperienza, non sono mai stati testimoni di eventi inspiegabili alla scienza. In realtà Margaret è ossessionata da un sedicente medium, tale Simon Silver, non vedente, che per anni ha raccolto a sé schiere di proseliti grazie a incredibili poteri di guarigione. Scomparso per lungo periodo, Silver annuncia un ultimo giro di incontri con il pubblico prima di ritirarsi, riaccendendo in Margaret il desiderio di smascherarlo, anche se questo dovesse compromettere la sua posizione. Per Rodrigo Cortés, già regista del disturbante Burger di Sepolto, un suggestivo thriller con notevole colpo di scena finale, e di 01 Rai Cinema, la pubblicazione a un video, anche qui il consiglio di adottare il Blu-ray per la superiore definizione d'immagine, ma anche per le tracce ad alta risoluzione di DTS multicanale in italiano e inglese, ma segnalo la presenza anche di una seconda strepitosa traccia multicanale, sempre in italiano, con resa qualitativa pari a quella di un CD. Per gli extra segnalo Making Off di 9 minuti, ulteriori 6 supplementi che approfondiscono il lavoro del regista, le riprese, i personaggi e il paranormale. E invece facciamo un salto nel passato, ma un passato nobile cinematograficamente. Nel 1947 il grande Fritz Lang dirigeva Dietro la porta chiusa. Prima che egli affrontasse il protone di esecuzione, giurò che non aveva mai inteso di uccidere, che aveva sempre sperato in un amore forte e durevole, ma che qualcosa, parlò di un influsso malefico di questa camera, lo spingeva suo malgrado al delitto. Molto immaginoso. A Don Ignazio sembrò possibile. Peccato per lui che ai suoi tempi non si conoscesse la psicanalisi. Sì, che la camera non c'entrava. Al contrario, è molto importante. Qualcosa gli era successo qui. In seguito al classico colpo di fulmine, l'avvenente Celia sposa un ricco uomo d'affari di cui dopo il matrimonio è testimone di comportamenti sempre più scostanti ed eccentrici. L'uomo è in realtà ossessionato da crimini del passato, appunto da ricostruirne le scene dei delitti nei locali della propria casa, sino al giorno in cui Celia scopre che all'interno di una misteriosa stanza è riprodotto proprio quella in cui lei soggiorna. classe 1947, un noir psicologico tra i meno noti del maestro Fritz Lang, ma non per questo meno interessante e coinvolgente. Da Sinister Film, una buona edizione DVD di notevole resa per l'immagine in bianco e nero, doppia traccia monofonica italiano-inglese, quella originale non solo offre un volume più alto, ma anche una maggiore presenza di elementi di contorno. Attenzione alla sezione extra da veri cinefili, un film di 60 minuti intitolato Il dinosauro e il bebè, dialogo in 8 parti in compagnia dei maestri Jean-Luc Godard e Fritz Lang, parzialmente sottotitolato in italiano. E allora, grazie Claudio, appuntamento la prossima settimana. Ciao, a presto. E sarà una settimana di cinema ancora molto ricca, con un'uscita che io vi segnalo già, ne parleremo diffusamente, World War Z con Brad Pitt, film di zombie davvero molto riuscito. E allora, io vi ricordo la nostra pagina Facebook, La Rosa Purpurea Radio 24, cliccate mi piace, siamo quasi 2000, dateci una botta che li superiamo in questo weekend. Grazie a Giorgio De Luca che ci ha dato una mano in redazione, a Peter Bescapè in regia. Appuntamento fra 7 giorni. Un saluto da Franco D'Assisi.